Vieni al Tour de France, vieni insieme a me. Un giro come questo al mondo non ce n'è. C'è il Mont Ventoux, l'Aubisque e il Tourmalet, dove ha vinto Bartali e Louis Jean Bobin. Buongiorno a tutti e benvenuti alla prima puntata sulla strada di Radio Bidon dopo l'introduzione che vi abbiamo proposto un paio di giorni fa. È una giornata particolare perché il Tour de France finalmente è iniziato, è una giornata particolare perché per qualcuno è finito il campionato europeo di calcio. Già. E questa cosa per qualcuno porterà dolore, per altri diciamo che apre ancora maggiori margini per concentrarsi sul Tour, meno manifestazioni collaterali ci sono, meglio è per poter ci concentrare al 100% sul Tour. Diciamo che i belgi, grandi appassionati di ciclismo, sembra che si siano fatti eliminare apposta per poter stare concentrati sulla birra e sul divano durante il Tour de France. Non so se lo stesso è accaduto anche con gli italiani, io non ho visto la partita, mi dicono che sembra che si siano impegnati invece per restare. Beh, da come ha tirato il rigore Pelé, credo che avesse una voglia matta di sedersi sul divano a vedere il Tour, però io non ho conferme di questo. Approfondiremo, inviteremo Pelé, che peraltro mi sembra che abbia un cognome quasi da finisseur francese degli anni 80, per cui credo che vada assolutamente in linea con il nostro programma. Finisseur che non si sono visti ieri, perché ieri nella giornata di apertura del Tour de France dovevano vedersi i velocisti sono stati, ci si aspettava i tedeschi, ma con uno strano scherzo della storia nella spiaggia dove sbarcarono gli americani nella seconda guerra mondiale contro i tedeschi, i velocisti tedeschi sono usciti tutti sconfitti. Davanti a loro ha vinto un signore che il Tour de France lo conosce bene, perché per la 27esima volta esulta al traguardo, si chiama Mark Cavendish. Il terzo nella storia, no? Dopo Merckx e Hinault come numero di vittorie vinte al Tour, tappe vinte al Tour. Esattamente, dei tre è quello che chiaramente ne può vincere ancora, anche se probabilmente se Merckx corresse oggi forse anche un po' fuori forma qualcosa potrebbe giocarsela. Può essere. Intanto in un teatro di guerra vince uno che ha soprannominato Palla di Cannone, che mi sembra quanto mai appropriato, e vince un corridore che da un paio d'anni veniva dato un po' quasi in calo, giustamente, perché i risultati erano quelli che erano. Ieri ha vinto con una volata quasi perfetta e va a prendersi la sua prima maglia gialla, cosa incredibile. L'ho realizzato anch'io con stupore che Cavendish non aveva ancora vestito la maglia gialla in carriera, e mi sembra che il suo più che stupore è stata quasi una commozione che quasi un po' completa la carriera di questo che è sicuramente uno dei velocisti più forti della storia e tra i primissimi di questa ipotetica classifica all time. Non gli manca quasi più nulla ormai. Per il resto della tappa ci ha parlato di alcune cadute, di alcuni ventagli provati e non sempre riusciti. E... Sì, è caduto Contador soprattutto, è caduto a 75 km dall'arrivo, in un tratto in cui la strada era stretta, c'era vento, ma lui era distante dai suoi compagni di squadra, in particolare da Tosatto, è finito a terra, si è escoriato un po' la spalla. Pare che la caduta non abbia avuto grosse conseguenze su di lui, ma lo sapremo soltanto nelle prossime tappe. Non è caduto solo Contador, è caduto anche Arashiro, tra gli altri. Un sacco di gente è caduta oggi, ma il nostro osservato speciale Arashiro, giusto Riccardo? Sì, Arashiro è caduto a 27 km dall'arrivo. E ho telefonato prima al dottor Guardascione, ecco, della Lampremerida, e mi ha rassicurato che ha avuto solo contusioni alla spalla destra e qualche ferita alle dita della mano sinistra. Quindi rassicuriamo tutti i tifosi, Arashiro ci sarà, anche ieri comunque si è rialzato, è arrivato col gruppo e quindi tutto a posto. Tutto a posto, noi lo seguiremo con particolare attenzione, uno dei nostri preferiti nel gruppo del Tour quest'anno. Altre due cose che abbiamo letto in giro: intanto Van Garderen, che giustamente da americano ieri ha celebrato la giornata sulle spiagge del D-Day, twittando, citando Neil Young su Twitter, dicendo "Keep on rocking in the free world" in questa tappa storica, mentre la Dimension Data ha twittato una foto molto bella di Keegan Gilderson dall'ospedale. Lui è caduto un paio di mesi fa durante la Corsa della Pace, era in coma, ora sta uscendo dal coma, è uscito dal coma, si sta riprendendo pian piano, e c'è lui con gli occhi lucidi per celebrare la vittoria del suo compagno di squadra Mark Cavendish. Poi cos'altro abbiamo? Abbiamo già la battaglia per la maglia nera, è cominciata, giusto Filippo? Esattamente, questo è un appuntamento che seguiremo quasi regolarmente, chiaramente, perché come ben sapete ci appassiona parecchio. E la battaglia per la maglia nera ha già una classifica abbastanza agitata, nel senso che ci sono due fuggitivi. Uno è Lars Sitting Bach, corridore che conosciamo tutti bene e abbastanza un talento per queste classifiche, a questo tour è arrivato dopo, credo, 2 settimane da una frattura di una clavicola, per cui insomma ha anche fatto un bel numero per rientrare in corsa e lo vediamo volentieri già protagonista, anche se la maglia nera la prende Timo Rosen, corridore olandese di cui confesso di sapere ben poco, ma sono sicuro che ci saprà. È del 93, sì. Beato lui. Ci sono anche dei nomi a sorpresa, peraltro, in questa classifica della maglia nera, perché a parte che ieri ha attaccato per tutto il giorno Howes, che è un corridore che insomma ci sa dare in questo tipo di competizioni, in realtà in top 10 ci sono due corridori come Jonis Aguirre e Rafał Majka. Addirittura Majka nella top 10. Che non ci si aspetterebbe di trovare in questa classifica. Non credo che terranno il piazzamento, però insomma ci proveranno. Poco più indietro, peraltro, credo che sia tipo 15° in classifica, c'è anche un signore che in questo momento veste la maglia Pua, che si chiama Paul Voss. Sì, Paul Voss, maglia Pua, attaccando sulle uniche due asperità di giornata, e lo abbiamo stalkerato un po' con i potenti mezzi di stalkeraggio che sono Twitter e i social network, e abbiamo visto che si è dato da fare per commentare la Brexit, ha ritwittato diversi tweet, tra cui sono molto arrabbiato, una generazione che ha avuto tutto, educazione gratuita, pensioni d'oro e mobilità sociale, ha votato per strappare il futuro della mia generazione. Quindi difficilmente conserverà la maglia Pua, ma noi magari lo vedremo alla maratona di Mentana la prossima. Presto sarà ospite. Tu dici, sì, vedremo un po'. Senti, invece la maglia verde ovviamente è sulle spalle di Cavendish, e Sagan invece il principale candidato a questa maglia. Noi l'abbiamo visto protagonista ieri, è arrivato terzo in volata, soprattutto il giorno della presentazione delle squadre, no? C'è stata una foto che gira, una foto molto simpatica di lui e Contador, Riccardo. Sì, è una foto che, diciamo, sono due foto, una quella di Contador e appunto Sagan sul camioncino militare alla presentazione, di fianco una foto che gli assomiglia un po', che è quella di Fidel Castro e Camillo Cienfuegos nell'entrata a L'Avana nel 59. Diciamo che i capelli lunghi di Sagan ricordano un po' quelli di Cienfuegos, lo sguardo e il carisma di Contador un po' quelli di Fidel, e quindi gli alleghiamo la foto poi sotto il podcast. Invece, Filippo, abbiamo degli ospiti oggi, giusto? Abbiamo degli ospiti perché abbiamo una serie di rubriche che lanceremo, qualche storia ci seguirà per tutto il Tour de France, una partenza così politica dopo questa presentazione a L'Avana e queste dichiarazioni piene di gentismo che troviamo sui Twitter, e tra l'altro sui Twitter è una citazione di Alessandra De Stefano, grande, chiaramente, grande. Che salutiamo. Ieri abbiamo visto veramente inviperita in dibattiti su Twitter con alcuni osservatori che facevano notare forse qualche scelta di tempo sbagliata. Vedremo se anche questa guerra proseguirà nell'arco delle varie tappe, speriamo non troppo. Noi invece abbiamo altre cose che ci accompagneranno nelle varie tappe, alcune rubriche che saranno più o meno fisse. Una di queste la lanciamo già abbassando la voce, perché è una rubrica in cui le cose ce le si dice piano nell'orecchio. È la rubrica di Francesco Bozzi, si chiama L'Invadente, e ci svela alcune invasioni nel ciclomercato del futuro. Grande bomba di mercato raccolta nelle strade di Francia. Siamo arrivati nel nord, per l'appunto, verso Parigi, non possiamo rivelare la località, e abbiamo incontrato un informatore che ci ha detto che un gruppo di investitori giapponese sta pensando, anzi sta completando, l'acquisizione di tutta la Nippo Fantini per una nuova squadra totalmente giapponese. Capitano Kunego, ovviamente, Beppu, Arashiro e Yamamoto, e soprattutto Pippo Pozzato. A voi la linea. E Francesco doveva essersi appena svegliato prima di partire per questa sua missione, perché aveva una voce abbastanza da qualcuno che ha seguito l'Italia fino a tardi e poi ha voluto dimenticare bevendoci su. Però a parte questo seguiremo ovviamente con interesse i suoi scoop giornalmente. Un'altra rubrica, questa invece è sulla nostra pagina Facebook. Ogni notte intorno a mezzanotte c'è sottovoce, come si dice in questo caso, Angelo Trofa, che ci parla della tappa del giorno in modo personale. Ascoltiamo, l'abbiamo chiamato abbiamo chiamato anche lui stamattina per sentire chi è e cosa fa. Ciao Angelo. Salve ragazzi, buongiorno a tutti ed eccoci qua pronti dalla Sardegna a seguire questo 103esimo Tour de France. La Sardegna che quest'anno potrebbe, speriamo, essere protagonista per la prima volta nella storia di un tour con la figura del nostro sorvegliato speciale Fabio Aru. Ecco, stiamo a vedere. Ecco, cosa dire, io sono un regista, un attore, un teatrante, ma per questi 20 giorni mi dedicherò anima e corpo soltanto al Tour de France e lo farò attraverso la nota quotidiana di Notturno. Cioè, l'obiettivo è quello di scrivere un post al giorno, una piccola analisi più ragionata in orari notturni, nella quale, partendo da ciò che è successo durante la tappa, partono per l'appunto delle riflessioni. E tutto questo nasce da quella sensazione che credo tutti i tifosi di ciclismo hanno, o comunque gli appassionati di ciclismo, cioè quella di stare seduti per tante ore su un divano, comodamente seduti su un divano, e poi alla fine della tappa sentirsi addosso tutti i chilometri corsi dai ciclisti. Questo perché è il potere meraviglioso del tifo, ma anche, credo, il potere del ciclismo, cioè quello di raccontare delle storie che in qualche maniera ci toccano, toccano proprio noi, il nostro punto di vista. Ecco, questo, da questa osservazione nasce il post di Notturno, che spero seguiate in molti. Detto questo, io non posso che augurarvi buon tour a tutti quanti. E buon tour a tutti, ci aggreghiamo a questo augurio di Angelo Trofa, un buon tour che oggi riparte con una tappa che va da Saint-Lô a Cherbourg-en-Cotentin. Sulle pronunce abbiamo sempre dei problemi, ma ci stiamo lavorando. No, oggi possiamo dire che è colpa di Skype, non era la tua pronuncia, era un disturbo, perché oggi stiamo trasmettendo tramite Skype, quindi se c'è qualche problema di audio, perdonateci, e anche le pronunce facciamo finta che sono legate a quello, quindi vai tranquillo. Probabilmente Garzelli ci ruberà questa argomentazione dalle prossime tappe. Magari già da questo pomeriggio, sono 180 e qualcosa chilometri, non mi ricordo esattamente quanti, una tappa che riprende buona parte del percorso di quella di ieri, o meglio lo completa circumnavigando il promontorio della Manica, e una tappa che fa vedere un finale che potrebbe mettere in crisi le ruote veloci. In particolare c'è questa salitella che si chiama Côte de la Glacerie, che credo, correggetemi se sbaglio, vuol dire salita della gelateria. Esatto. Lì io credo che buona parte dei velocisti si sfileranno e magari ne approfitteranno per mangiarsi quel gelato che penso si prenda in cima, e invece al traguardo se la giocheranno altri nomi che chissà chi possono essere. Riccardo, cosa ne dici? Anche l'arrivo è in leggera salita, quindi diciamo velocisti puri si saranno probabilmente staccati prima, o comunque se rimarranno faranno un po' fatica. Quindi io direi Saga, anche perché potrebbe indossare la maglia gialla e chissà, potrebbe essere lui, diciamo. Sagan, grande favorito, ovviamente. Credo che non ci sia storia su chi sia l'uomo da battere oggi. Però su un arrivo del genere non si può non considerare Michael Matthews, John Degenkolb, secondo me, e ovviamente Alaphilippe, che aspettiamo su uno dei traguardi di casa. E invece degli altri grossi nomi, io forse con un po' di fantasia mi aspetto qualcosa da Leandro Valverde, chissà. Io non mi aspetto nulla, mi aspetto forse dei ventagli, chissà, che ieri ce li hanno fatti annusare ma poi non ce li hanno regalati davvero. Potrebbe essere il giorno buono e magari invece esce un vincitore a sorpresa tipo Jasper Stuyven. Addirittura oggi Stuyven, non ci dispiacerebbe in realtà, però. Diciamo già che abbiamo un debole per questo ragazzo, si capirà. Si capirà strada facendo, senz'altro. E Van Avermaet invece può essere una tappa per lui? Ogni gara di ciclismo è una gara per Van Avermaet, vediamo se oggi mette la sua zampata. Non l'ho visto benissimo, però vediamo, sono curioso. Direi che non resta che abbandonarci al divano e goderci il pomeriggio che ci aspetta. Sì, perché la tappa sta già per cominciare, siamo lunghi. Ci risentiremo su Radio Bidon nei prossimi giorni, non vi diamo un appuntamento preciso perché ci piace restare nel mistero. Allora, domani non ci siamo perché c'è una grande novità domani mattina, ma non ve la svegliamo qui, domani ve la annunceremo, quindi martedì probabilmente prossima puntata, ma certezze non ne abbiamo. In attesa di scoprire chi vincerà la tappa di oggi e in attesa di scoprire quando tornerà Radio Bidon, noi vi salutiamo, vi auguriamo buona tappa, vi auguriamo buon tour e lasciamo la parola al nostro siglaiolo di fiducia, ovvero Dino Zandegu. Ciao. Ciao. Vieni al Tour de France, vieni insieme a me, un giro come quello al mondo non ce n'è, c'è la maglia gialla, la maglia pua, poi chi vince il tour nella storia entrerà. Olè.